Uyelele ma, uyelele mama siya chavula tina. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Zimbabwe. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Oh Zambia. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Malawi. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Mozambique. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Angola. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Botswana. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Lesotho. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. Swaziland. Yelele mama, yelele mama. Oh yeah. Yelele mama, yelele mama. South Africa. Yelele mama, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele, yelele, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele mama, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele, yelele, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele mama, yelele mama. Oh Africa. Yelele mama, yelele mama. Oh Africa. Yelele mama, yelele mama. Oh Africa. Yelele mama, yelele mama. Oh Africa. Yelele mama, yelele mama. Oh Morocco. Yelele mama, yelele mama. Oh Somalia. Yelele mama, yelele mama. Oh Ghana. Yelele mama, yelele mama. Oh Nigeria. Yelele mama, yelele mama. Oh Gambia. Yelele mama, yelele mama. Oh Sierra Leone. Yelele mama, yelele mama. Oh Kipite. Yelele mama, yelele mama. Oh Africa. Yelele mama, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele mama, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele mama, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele, yelele, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele mama, yelele mama. Oh Africa. Yelele mama, yelele mama. Oh Africa. Yelele mama, yelele mama. Oh Zimbabwe. Yelele mama, yelele mama. Oh Zimbabwe. Yelele mama, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele, yelele, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele mama, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele, yelele, yelele mama. Siya jabula tina. Yelele mama, yelele mama. Uru 70, la trasmissione sull'Africa, suoni, musica e notizie dal continente africano, tutti i venerdì alle 21.30, repliche la domenica alle 23 e il lunedì alle 8.30 la mattina. Uru anche il proprio profilo Twitter, che appunto rilancia notizie e informazioni sia sulla trasmissione sia sull'Africa, sul continente africano. Uru trattino basso RV, che è RV doppio, è Radio Wombat, e lo potete anche riascoltare, potete riascoltare il podcast andando alla pagina podcast della radio, Radio Wombat, wombat.noblogs.org, in cui ci sono chiaramente i podcast di tutte le trasmissioni di Radio Wombat. Una puntata, la 70, che ha come filo conduttore uno strumento. Sì, infatti stasera non parliamo di un paese o di un tipo di musica, ma degli interpreti maggiori della cora. La cora è lo strumento per eccellenza dell'Africa occidentale. Originariamente era riservata alla casta dei griot, i trovatori e custodi della tradizione orale importantissima per l'Africa, che seguono da vicino la genealogia e quindi ancorano l'identità di tutti nella comunità. La cora è spesso descritta come un'arpa liuto, ma in realtà appartiene alla famiglia delle arpe calabash, molto presenti nella cultura mandingo. Questo strumento, interamente realizzato a mano con materiali naturali, consiste in una zucca tagliata in due, la cassa armonica, su cui è distesa una pelle bovina, la tavola armonica, una lunga impugnatura in palissandro con corde 21 che adesso sono di nylon e sono attaccate appunto alla tavola armonica. Sempre sulla tavola armonica è anche attaccato un pezzo di legno che ha la funzione di allungare le corde, ma soprattutto di organizzarle in due file parallele ognuna delle quali verrà suonata da una delle mani del musicista. Se la presenza del collo ricorda la forma del liuto, le corde della cora in realtà vengono sempre suonate vuote, cioè come si fa con le arpe. E questo strumento praticamente ha un suono morbido, melodico e ritmico molto caratteristico. E vi facciamo ascoltare il primo pezzo di questa trasmissione, Alaji Bai Conte, Alla La Ha Ha Ke. Thank you. ieri, 17 gennaio, in questo caso di 58 anni fa, cioè nel 1961, l'assassinio di Patrice Lumumba a soli 36 anni, eroe dell'indipendenza congolese, che divenne appunto primo ministro, e che tra l'altro con la particolarità di essere stato l'unico primo ministro del Congo eletto tramite elezioni, se non fino a l'elezione di questi giorni, e peraltro è tuttora contestata, comunque l'unico primo ministro eletto tramite elezioni in una forma non contestata, e comunque appunto eletto proprio per il grande seguito che aveva all'interno nelle masse congolesi, proprio per la sua importanza, per il suo essere leader della lotta di liberazione del Congo dall'imperialismo e colonialismo, in questo caso belga. E appunto assassinato dopo solo 6 mesi dal suo insediamento dal primo ministro della Repubblica Democratica del Congo, un insediamento in cui pronunciò lo storico discorso dell'indipendenza e in cui appunto tracciava le linee di intervento del governo negli anni futuri, e in cui non trovavano posto le speculazioni, l'arricchimento, sostanzialmente una nazionalizzazione delle miniere erano la principale fonte di guadagno da parte della potenza coloniale, in questo caso il Belgio, e di tutte le compagnie minerarie a loro collegate. E conseguentemente le autorità belghe e le compagnie minerarie fecero di tutto per impedire l'avanzamento, l'andare avanti di questo governo. Il Belgio rispose inviando truppe in Katanga, la regione mineraria, sostenendo una secessione farsa guisata da Moïse Tshombe. E appunto il 17 gennaio Lumumba e una parte, diciamo, dei ministri che componevano appunto questo governo fortemente anticolonialista, antiimperialista, e che mirava a diminuire il potere e l'influenza delle tribù e una maggiore giustizia sociale e autonomia del paese, furono catturati, trasferiti in aereo e giustiziati la sera stessa. L'indomani i resti delle vittime furono fatti a pezzi e fatti sparire nell'acido, e nel corso degli anni successivi questo particolare macabro, varie ossa appartenenti al cranio, allo scheletro Lumumba, furono trovate nei dintorni del posto, del luogo in cui fu assassinato, oltre al fatto che molti dei suoi sostenitori furono giustiziati nei giorni seguenti con l'aiuto e la partecipazione di mercenari belgi che a loro volta erano chiaramente in collegamento con il governo dell'epoca. E ritorniamo alla cora, che è l'unica arpa calabash suonata dai griot. L'origine dei griot, la loro genesi ha origine in storie spesso mitologiche, e si dice che la parola dei griot sia così potente da poter spezzare le porte o fare in modo che un albero perda tutte le sue foglie. Ecco perché i griot erano presenti anche sul campo di battaglia, esortando i soldati alla vittoria. Le grandi famiglie griot sono i Sissoko, i Suso, le Diabaté, Diakabaté, le Jobarté, Kouyaté, Kanuté, Tunkara, Conté e Kanté, e sono presenti in Senegal, Mali, Gambia e in ambedue le Guinee. E appunto il prossimo pezzo vede due esponenti di queste due famiglie, Diabaté e Sissoko, insieme. Si tratta di Toumani Diabaté e Balak Sissoko. Il pezzo si intitola Yamfa. Thank you. Eh sì, è di questi giorni la notizia di un ignobile accordo tra l'Unione Europea e il Marocco riguardante appunto un accordo bilaterale sulla pesca e stabilisce le condizioni di accesso per la flotta europea pescherecia, per la flotta europea allo svolgimento della pesca, regolamenta la pesca nelle coste atlantiche. L'accordo copre la zona di pesca dal parallelo 35 al parallelo 22, e cioè da Cap Spartel nel nord del Marocco a Cap Blanc, incluse quindi anche le coste antistanti la regione del Sahara occidentale e quindi della zona legittimamente rivendicata dalla popolazione sahrawi. L'intesa specifica tra l'altro tutte le modalità per l'accesso per le flotte pescherecce dei paesi europei, prevedendo anche un contributo finanziario da parte europea di 52,2 milioni di euro l'anno. Peccato che appunto le coste di cui stiamo parlando sono parte del territorio legittimamente rivendicato dal Fronte Polisario di Liberazione e che appunto si batte per la legittima restituzione della terra alla popolazione sahrawi. A tal proposito si era espresso il giorno precedente, quindi una dichiarazione che la dice lunga appunto sull'atto di pirateria politica effettuato dal Marocco e dall'Unione Europea rispetto alla popolazione sahrawi. Ahmed Ahmad, uno dei principali esponenti della Commissione dei diritti umani sahrawi, si era rivolto ai paesi, all'Unione Europea, la Sahara occidentale occupata e sotto costante oppressione dell'invasione marocchina, ci rivolgiamo a voi, l'intera società europea, per esprimere la nostra avversione profonda e la preoccupazione per la partecipazione dei paesi europei nella negoziazione dell'accordo di pesca con il Marocco, che comprende le acque del territorio sahara occidentale occupate illegalmente dal Marocco. Questo accordo, considerato illegale dalla Corte europea nel suo ultimo giudizio e dal diritto internazionale, danneggia seriamente i sahrawi e fa aumentare la sua oppressione contro di noi. Il rappresentante dei diritti umani proseguiva il giorno precedente dell'accordo, chiedendo ai parlamentari e ai governi europei di sospendere immediatamente i negoziati sulle nostre acque e altre risorse naturali usurpate e saccheggiate senza ragione e a spese di un popolo diviso tra esilio e inferno, e con il pretesto appunto di saccheggiare queste stesse risorse naturali. Diciamolo chiaro, stiamo parlando di un territorio che è stato invaso da sangue e fuoco, con violenza e crudeltà, e che ha lasciato fino ad oggi sofferenza nel profondo cuore del popolo sahrawi, un territorio in cui vi sono prigionieri politici sahrawi condannati a ergastoli o comunque a pene detentive lunghe solo e soltanto perché hanno espresso il loro desiderio di autodeterminazione, un territorio occupato dove subiscono torture e maltrattamenti donne e bambini ogni giorno, vecchi e giovani. E l'appello continuava sperando, e quindi una speranza è stata puntualmente disillusa, sperando che i governi europei non cadano nell'inganno marocchino. E i sahrawi non sono mai stati consultati rispetto a questi accordi e non sono stati in grado di parlare, di commentare democraticamente rispetto ad accordi di questo tipo. Il nostro unico rappresentante legittimo è il Fronte Polisario del Sahrawi, e garantisce che tutti i sahrawi possano godere del loro diritto di autodeterminazione. Siamo contrari agli accordi illegali con il Marocco. I sahrawi, la popolazione sahrawa, non è merce. Proprio come l'origine dei griot, anche quello della Hora ha un carattere mitico. E il momento preciso della sua creazione nella storia rimane sconosciuto. Di sicuro la prima fonte scritta che menziona un simile strumento risale alla fine del XVIII secolo. Nel 1797 l'esploratore scozzese Mungo Park registrò durante il suo viaggio sul fiume Niger, il primo fatto da un occidentale, la scoperta di un'arpa a 18 corde chiamata corro. Ma per i suonatori della cora In realtà l'origine di questo strumento rimonta verso il XIII secolo. Dopo il periodo di decolonizzazione, la cora divenne un simbolo di autenticità culturale e si aprì anche alle donne, perché fino allora la cora era riservata soltanto agli uomini. E infatti già nel loro primo e unico EP, Les Amazones d'Afrique, questo gruppo femminile, una sorta anche di collettivo, ha rivendicato ancora di più l'uso di questo strumento, a cui ha dedicato anche un pezzo intitolato A Pleie de Decora. Nello stesso momento Sona Jobarte, una appunto appartenente a una delle famiglie della tradizione griot, appunto che suonano, insegnano la cora, sta portando avanti il proprio percorso musicale suonando la cora, e di Sona Jobarte vi facciamo ascoltare Mama Muso. Thank you. La regione in cui è nata la cora invece sembra mettere quasi tutti d'accordo. Infatti, per la maggior parte dei griot sarebbe Kabu, l'ex regno mandingo del Senegal e della Guinea-Bissau. La cora è così strettamente legata alla cultura di questa regione, caratterizzata da danze molto ritmate e polifonie ricche, che si dice che parla mandingo. Fino alla metà del XIX secolo il rito dominante nella cultura mandingo era l'animismo. Durante la seconda metà del XIX secolo l'Islam, già presente sul territorio dall'VIII secolo, divenne gradualmente la maggioranza. E vittoria in questo caso degli insegnanti guineani dopo 3 mesi di sciopero. Lo sciopero ad oltranza degli insegnanti della Guinea ha dato i suoi frutti. Il governo è stato costretto a raggiungere un accordo con le unioni degli insegnanti che appunto avevano promosso questo sciopero e che pone fine a più di 3 mesi di proteste lanciate per richiedere aumenti salariali. Il segretario generale dell'Unione degli Insegnanti e Ricercatori della Guinea, Abubakar Suma, ha accolto con favore la firma di questo accordo, appunto giunto in seguito a uno sciopero fu lanciata all'inizio di ottobre e portata avanti immediatamente in tutte le scuole del paese. Il sindacato ha accusato il governo della Guinea di sottrarsi alle proprie responsabilità per garantire il rispetto di un precedente accordo che prevedeva l'applicazione di un aumento salariale del 40% e l'apertura dei negoziati su un salario minimo di tutti gli insegnanti di 8 milioni di franchi della Guinea. Quindi uno sciopero di 3 mesi per appunto far attuare delle misure di aumento salariale già decise e che non erano state attuate. Dopo 3 mesi di sciopero finalmente si è giunti all'obiettivo e quindi agli aumenti salariali per gli insegnanti della Guinea. Il prossimo pezzo che ci ascoltiamo è di Dembo Conté e Kausu Kouyaté, Kairaba Djabi. Nganiyo ndenta wala ngeta kukili wa multi nganyo kanun na mecho kang nganyo kanun na badi ya kang fong nata miro soto ba haira ba jabiye mabarika kawu nganiyo lumanganya kambaru dimma ba haira ba jabi ngurubi kanyalum ba hayra ba jabi kamma de ba jabi le yawulu kasama skan jalom li baharu londo babal modu hanigu mun gedi kare wali ibn wali fi yawm al qiyamati la safi al mustafa jabi jonnani alimanum wasmun dunya allah ma fulo di manga su dunia la ba khere ba ja da jang kem ba di manga su dunia la asa dure di manga su dunia la yakuba doma salimi nga jabi doma lam ba khere ba jabi ti ba fure ma koto malo Harga new dia de la carga new man we la cambia new dia de la bahairaba ni aje kae bahairaba kairo le babulu kanda bila kampa tole dala kampa lon nade adala fondi sirela ya tinna ala fangoye mol anyilla mol nawote kae bahairaba kairo damma momin do mo kairo de kairo do jakalla do di malung ani yoro mangkanyang pagera ba buru be kanyalung jabe junani endia dali petia balia dalung hargeo dalung argenta ya dalung kang parako dalung parakanta ya dalung kang Bala bena kuru musu bena ke madu bena fama jeli bena madufa Ne kumale majabe junnani Vi ricordo che state ascoltando Radio Wombat sul sito wombat.noblogs.org in streaming, oppure potete ascoltarla sulla AM sull'1359. Sempre sul sito della radio a wombat.noblogs.org potete controllare il palinsesto dove ci sono scritti i giorni e le ore a cui ci sono tutte le trasmissioni e la pagina dei podcast dove potete ascoltare tutti i podcast delle puntate precedenti di tutte le trasmissioni di Radio Wombat. Vi ricordo che Radio Wombat ha il proprio profilo Twitter che è Radio Wombat Firenze. Potete scriverci alla mail postawombat@insiberia.net. E a proposito di Guinea, a proposito di cori, a proposito di mandighi, Morikante è nato appunto in Guinea da una delle più note famiglie di musicisti griot e successivamente viene mandato da uno zio a Bamako all'età di 7 anni. Bamako è la capitale del Mali, per appunto essere iniziato alla tradizione griot e entra a far parte della formazione della Rail Band, questo supergruppo che abbiamo già menzionato e abbiamo fatto ascoltare in diverse trasmissioni precedenti di Uru, ed entra in qualità di chitarrista e balafonista, cioè di suonatore di balafon, oltre a diventare cantante in seguito all'uscita di Salef Keita. Nel frattempo impara da autodidatta a suonare la cora, uno strumento indispensabile per completare la sua formazione di griot. Tra l'altro Morikante è veramente impegnato per aiutare, per far conoscere la cultura e la musica africana e sviluppare progetti di solidarietà verso le popolazioni più povere. E di lui facciamo ascoltare Banchiero. Thank you. Tutto è scritto, è un documentario realizzato a febbraio 2018 in Mali, tra l'antica città di Timbuktu e la capitale Bamako, e testimonia lo straordinario rapporto di rispetto e protezione che oggi più che mai lega questo popolo del deserto a un patrimonio di tutta l'umanità messo in pericolo dall'oscurantismo fondamentalista. E per chi come noi che conduciamo, portiamo avanti questa trasmissione e che ci abbiamo passato diversi giorni tra Bamako, Timbuktu e Gao, toccante, insomma, riteniamo importante appunto una testimonianza del genere, perché veramente in un periodo in cui è ancora più difficile andare a Timbuktu, è probabilmente impossibile, documentario testimonia se non in una maniera, nella stessa maniera in cui comandarci, insomma, la bellezza di questa città, la bellezza anche architettonica, ma anche la socialità che, almeno per quanto ci riguarda, si respirava, ora lo sappiamo, nelle sue vie, e che si spera si ricominci di respirare nuovamente. L'Italia ha vinto la 36esima edizione del Bellaria Film Festival, che si è tenuta a fine dicembre scorso, con la seguente motivazione: per la forza espressiva e la maturità linguistica, alle quali ha mostrato aspetti fondamentali e sottaciuti come la cultura, le bellezze e per la responsabilità nei confronti della grande eredità del sapere, un fraseggio filmico profondamente incisivo. Quindi tutto è scritto, il documentario di questo documentario di Marco Pavan. Il prossimo pezzo è Tumani di Tumani di Abate, uno dei più grandi e riconosciuti suonatori di cora maliano. Di Abate viene da una lunga tradizione familiare di suonatori di cora, incluso suo padre Diki di Abate, che ha registrato il primo album di cora mai registrato nel 1970. Le tradizioni orali della famiglia di Tumani di Abate risalgono addirittura a 70 generazioni di musicisti. È cugino di Sona Jabarté, che abbiamo ascoltato prima, che è stata appunto la prima donna suonatrice di cora nella loro famiglia. In questo caso ascoltiamo Tumani di Abate insieme alla Symmetrical Orchestra. L'album è Boulevard de l'Independence, il titolo è Mamadou Diaby. Fondazione NKA, Fondazione NKA promuove un'attività di formazione e scambio culturale nel campo dell'architettura e sostiene la diffusione in Africa di edifici a basso costo e a minimo impatto ambientale. Ad esempio in Ghana, nel villaggio di Abethenim, nella regione Ashanti, gli architetti volontari della fondazione hanno lanciato un laboratorio di architettura tradizionale per i giovani del posto, i giovani locali, con il duplice obiettivo di insegnare un mestiere e di valorizzare le tecniche di costruzione rispettose dell'ambiente, affinate dalle popolazioni locali nel corso dei secoli. Per ulteriori informazioni potete andare anche sul sito web nkafoundation.org, nkafoundation.org. E ascoltiamoci Tat Din Ding Joe Barton con Bitillo. Thank you. finisce qui la trasmissione di stasera. Vi aspettiamo venerdì prossimo alle 21:30 circa, come sempre. Vi ricordo che se avete perso una parte della trasmissione la potete riascoltare in replica la domenica alle 23 o il lunedì mattina alle 8:30, anche con la radio della macchina mentre andate al lavoro sul 1312 in AM. Ciao a tutte e tutti. Ciao ciao. Zia Chabu Latina, Zia Chabu Latina, Zia Chabu Latina, Zia Chabu Latina, Oh Ethiopia, Oh Uganda, Oh Kenya, Oh Tanzania, Oh Ghana, Oh Nigeria, Zia Chabu Latina, Zia Chabu Latina. Zia Chabu Latina, Zia Chabu Latina, Zia Chabu Latina, Zia Chabu Latina,